giocare io, potrebbe giocare io, Emes. Questo è un bimbi. Ma non capite, lui è il telefonino, No, Asco! Chi sei cinese? Cos'è? Un coso cinese, Un altro cinese l'hai comparato. Ehi, hai il campanello! Riprenditi che mi sto facendo le medicine, mi sto prendendo. sento in questo canale parlare, non ho capito chi è, ma lo sento sul 12, io non è molto forte, ma arriva sul 12, sotto lo sento. Oh Giampa, ci sei ancora? Giampa, no, era Giulio che voleva sapere se c'eri ancora. Era Giulio, no, a me Giampaolo, Giulio, mi sta arrivando un segnale di 8, Santiago, Fabio, sono più vicino forse, Santiago di 8 mi arriva a me. Ma ci sono anche 4-5 km dove sono io, lui, è quello, il problema è quello. No, ma lo sento sempre basso io. Adesso questa battaglia l'ho sentito un pochino meglio. Ciao Silvestro, perché adesso evidentemente di piove, perché quando piove c'è quel rumore della pioggia sull'antenna e allora crea rumore, crea fastidio naturalmente, ma così no. E vabbè, dai, pazienza, troveremo giornate migliori, già arriva la primavera fra un po', incominciando da domani sarà una bella giornata, poi magari lunedì ci sarà di nuovo un pochino di pioggia e poi si vedrà. Andremo avanti così, di questo passo, bene, bene, bene, bene, bene. Avanti già. Caso, che lasci che tu abbia ragione, senza ombra di dubbio, Bravo, poi io ormai non sta, ho visto un bel incidente lì, sono successi anche grossi, macchine distrutte proprio. Però non ti ho mai fatto caso, lo sai, forse è perché uno passa la sacca del semaforo, quindi controlla il semaforo e non controlla la segnaletica. La segnaletica vuol dire rallentare e all'occorrenza fermarsi. Dice così la cosa, la dicitura di quel cartello lì. Rallentare e all'occorrenza fermarsi. No, aspetta un attimino Gianni, lì c'era il triangolo, no? Il triangolo è di dare la precedenza a te, e c'era scritto sotto, aggiuntivo, in caso di semaforo spento. A semaforo spento c'era scritto sotto. Allora, cosa vuol dire il triangolo? Oh, dare precedenza a destra, quello lì vuol dire dare precedenza a destra a semaforo spento, o lampeggiante, mi pare, una cosa del genere. Spento. A semaforo spento, dare precedenza. Quello lì è un segnale, quando il semaforo è spento tu devi dare precedenza a destra. Non obbligato di fermarti, no, ti devi fermare e dare precedenza a destra. Se è necessario, però dare la precedenza non a sinistra ma a destra. Quel cartello c'era, a me me l'hanno fatto notare un giorno che c'era un incidente lì, e dice quello c'ha ragione, che è uscito dalle pistone, di quello ha ragione, così il camionista baracchino l'ho scritto il giorno fa, e l'ho guardato bene, cavolo, c'erano i segnali, sì, da una parte e dall'altra, capito? E c'era un incidente abbastanza grosso, quello che è uscito dalle pistone, sì, aveva ragione, perché lì c'era un segnale che diceva dare precedenza a destra, così c'aveva quello doveva dare la precedenza a destra a quelli che si arrivano a Porrottore, ma a quelli che si devono a Sassari c'aveva la precedenza a lui, però non la rispettava nessuno, che passavano dritti e non lo controllavano quel cartello. Però adesso, io l'ho visto la settimana scorsa che non c'è quel cartello, l'hanno tolti da una parte e dall'altra, li hanno tolti, quando mettono in funzione il semaforo lo rimetteranno sicuramente, capito? Sì, ma non so perché quello che c'era, senso unico, via Fattori, e poi usciva verso la zona industriale, era una cosa allucinante che io dovesse fare, sono dalla zona industriale, tutto il giro di Portatore e faccio la satellite. Era un casino, l'hanno tolto perché sicuramente hanno protestato anche gli abitanti, che lì la senso unico è comodo, perché tu quando ritorni anche la rifornire, per lì io vado a rifornire il gas. Quelli della zona di Parigi, quelli che facevano la sabbia, la ghiaia, quelli di Parigi, quei camionisti lì, e da loro si fermavano, li facevano passare, e lì qualcuno andava e li superava, però siccome loro, ed è da loro che lo saputo, e io ho guardato, poi scendete e c'era, avevano ragione, quel cartello, il semaforo era spento il semaforo è spento, e ha dovuto eliminare la precedenza a destra, capito? Però nessuno lo osservava questa cosa, senso che un bradetto dritto non me ne ha potuto passo dritto, invece non è così, non è proprio così, hai capito? Questo è proprio da quelli della zona di Parigi, da quei camionisti lì a Baracchino, l'ho sentito, ho controllato, ho visto, ad avere un incidente brutto, se no, chi non esce ha ragione, esce a chi va via la precedenza, capito? Rispetto all'altro che è sceso da Sassari, capito? Ed era così, poi ho visto la settimana scorsa che quei cartelli non ci sono più, capito? Facciamo girare, dai, avanti giù. Giulio si è attentato nel frattempo che stavamo parlando. Avanti, chi c'è rimasto? Guffo. C'era quel cartello, ne hanno levato lui. Ah, si è accavato nei danni, capito. Gianpa, ci sei ancora? Sì, io mi stavo chiamando, stavo guardando l'arrivo del Giro d'Italia, della prima tappa, Cavendish, ha vinto il volante. Ma io, saranno una quindicina di anni fa, lui lì, c'era il semaforo, io, e sono passato a 54 all'ora, 54, e lì c'era anche il limite di velocità, c'era l'autovelox. Mi è arrivata la fotografia a casa, proprio perché avevo superato i 50 chilometri. Immagini, mi avevano mandato la fotografia, naturalmente anche con l'acqua da versione, perché avevo superato i 4 km la velocità. Io sono passato a 54, mentre invece lì il limite era di 50. E chi l'avevo presa lì? No, io, mia moglie l'ha presa lì. L'era passata nel 72, il semaforo non c'era, anni fa, mi ricordo, non si mette il tema, 72, ne avevo fatto la fotografia, c'è ancora, mi fa parte, era con la banda rossa. A 62 era ancora il Lire e ho fatto lì quel tratto lì stesso, quel tratto più o meno che c'è il semaforo adesso là. Ok, no, allora in quel periodo non c'era il semaforo meno lì, nemmeno lì, con l'Alfa Sud mi sembra che io sì, con l'Alfa Sud. Mi arrivo attaccato, non è questa cosa, mi arrivo questa fotografia, tutto bene inquadrata, la targa e tutta la macchina, tutto chiaro. A 54 stavo andando, tu puoi immaginare che razza di superamento che avevo fatto. Basta, incredibile, ragazzi. Magari si scende uno a 120, 150 e non succede niente. Vabbè, adesso c'è il semaforo, adesso è diverso il discorso. Adesso è diverso, non penso di metterlo più l'autovelox lì. Tu eri a 154, altro che 54. A 54 ero, leggevo, me lo ricordo benissimo, che stavo andando alla petrochimica perché avevo fatto un negozio, un tabacchino avevo arredato, che è il tabacchino che c'è su in via Castaneda, su in alto, con l'angolo per andare in via Castiglia, mi sembra che sia quella zona di Marras, e l'avevo fatto io quel negozio. E sono andato a comprare contro soffitto, no? Quello del poliziotto alla Tourist Expanse all'interno della SIR, che lì costava la metà della metà di quanto costava nei negozi a Sassari. E allora abbiamo comprato lì, e lì ho un amico, vero? E siamo andati lì, siamo andati, abbiamo preso questo materiale, era andata, ma dopo una quindicina di giorni, 15-20 giorni che ero passato, mi è arrivata questa bella fotografia. Dammi quanto sono fotogenico, a 54 all'ora, e vabbè, ma vedi se è successo. Gianni, sei arrivato? Io sono già partito, ecco cosa succede. Vabbè, ma ti hai spettinato, spero, se no ti riuscite a spettinare. Chiaro che no, allora avevo anche un po' più di capelli, dunque mi dovevo pettinare per forza. Adesso lo posso fare anche a meno, quando mi taglio i capelli non c'è bisogno di pettinarmi, perché intanto non mi vedo più quasi. Dunque, ma allora già ne avevo, e sto parlando di una quindicina d'anni fa, già, ancora avevo qualche moccolo. Papà, riprendere mai che sto salutando, là. Ok, ciao già, ci sentiamo, buon lavoro, dai, riprendi lui. Yeah, ciao già, dai, c'era la limite più tardi. Comunque, Giulio, all'epoca non erano neanche i figli urbani, erano dei privati, c'era una Renault 19 o 9, erano i privati, sinceramente. E pure erano elevati, poi con le contabilità io ho la coppa gatta, anche a 200 e tutti i miei abbracci si pare, due che ho pagato io. E perché erano privati, non erano vigili urbani, era gente privata, se ti ricordi all'epoca, lì, che facevano, era una Renault 9 o Renault 19, erano veramente così, una macchina del genere comunque. Ma non lo so, perché io non mi ero accorto di niente. Per me, quando sono passato, sì, ho visto questa macchina della polizia o cosa era, e che mai pensavo che c'era in quel momento l'automelox. Poi siamo come, poi io sono, per abitudine, vado sempre molto piano, non ho mai corso, ma tanto meglio ancora lì, perché lì c'era subito l'incrocio, eccetera, eccetera. Dunque, io sinceramente non per essere presuntuoso, ma sono stato sempre molto, molto prudente in macchina. Ripeto, avevo superato appena di 4 km il limite di velocità, che poi era assurdo che lì mettessero il limite di 50 km. Allora, metti un semaforo, metti un coso, fai una rotonda, quello che ti mai deviare, ma era un'assurdità, non si poteva, intanto perché la strada era molto larga lì, e dunque uno deve dire se la segnaletica non la può vedere nemmeno, perché passi e basta, non è che stai lì a guardare la segnaletica, no? Ma per dirti, per soli 4 km in più, mi avevano mandato la multa a casa con la fotografia bella, io vado un passeggio, se devo andare devo fare chilometri, sono andato una cosa, allora cerco di pericolo, però quando scendo dalla foresta sono piano piano, no, se va a casa, e quando me la porto solo, se va, con mia moglie non vado, io vado per passeggiare, non per correre in macchina, dico la verità, io sono così, sono fatto così. E un giorno, però se ne racconto da tempo fa, eravamo nel frattempo, questo ultimo lo stavo imbottigliando. A un certo punto mi sono mancati i tappi di sughero. E cosa è fatto? Ho preso, c'era la peggio di mio figlio dietro della mia. Era dietro la mia, ho preso il borsellino e non mi prendo, mi sono dimenticato le patente e nulla, e passano un cilindro, ricordo ancora. Siccome lì dove c'è il riconoscitore del lesso a fianco c'è un coso di ferramenta, anche i tappi li controlli, i tappi di sicurezza, ma vado in fretta, non so usare quella macchina, era dietro della mia, ma vado con quella veloce. Vado lì e non c'aveva il tappo, e io c'ho col filo già lì, penso, pensando, e ho detto, ma capita, ho visto che ce l'avevo. Mi viene in coda, ho detto gira, sono vado quel piazzale prima della chiesa di San Gabino, non so come si chiama, dice quel mura mi pare si chiama, il ferramenta anche lì, ce l'hai stato, sono vado a prendere lì, vado, parto, dico la verità, stavo camminando sulla miglia quasi di 80 all'ora, quasi 80 all'ora, e supero il video di bancare che va poi per la fiamma salta, qua c'è nella Porto Torres, quello che c'è scritto bancare. Su, però quelle mi passano a trapeggio, tipo la mia, forse un 1600, tipo quella che avevo io, clicca, boom, e mi fa il vento. Mi fa il vento, boom, arrivo quasi al corso del catrame, cazzo, e la finanza con l'ampeggiatore accesi. Con l'ampeggiatore accesi, boom, e mi mette la parete e mi blocca. Mi blocca, dice, a 180 noi, dice, non riuscivamo a prenderlo, a 180, ha detto no, avete sbagliato persona, quella macchina, detto, non si vede più, è già a Porto Torres, detto, mi ha fatto il vento a me, non sono io, no, ma è lì, è la macchina, no, sono io, ha detto che non ho superato neanche gli 80, ha detto più di 80, detto, ma sta scherzando. È vero, senza cintura, senza patente, Giulio, e niente. Beh, a Rosario dice, vabbè, a 80, 80 è il limite da 50, ma... però ha sbagliato, non ero io, la macchina era molto più veloce quella là. Beh, in poche parole, mi hanno fatto 70... cosa mi ha fatto? 73 o 72 euro, perché non c'avevo la patente, non mi ha fatto la cintura, non mi ha fatto la velocità, è perché il confermativo sono andato a 80 invece di 50, un po' che parare, mi ha fatto la contravvenzione, non mi ha detto, però non avevo la patente appresso. Ma la politica, le volte sono una scena, solo a chi devono contravvenzionare se magari lo perdonano, mentre invece a chi è tranquillo le fanno la contravvenzione e già lo so che può succedere così, purtroppo, no, io un giorno anch'io ho dimenticato la patente, l'avevo dimenticata a casa, mi ha fermato la polizia, cosa che raramente mi ferma, io in tanti anni, tu pensa, io sto guidando dal 66 ho la patente, praticamente 40 decani all'incirca, quella del genere, 40-56 anni, di preciso non mi ricordo. Comunque dal 1966 io ho la patente e ho sempre avuto la macchina, da sempre, però guidavo già da prima anche senza la patente, guidavo. E tanto è vero, quando lavoravo che facevo l'elettricista e lavoravo allora in un'azienda di elettricità e c'era anche il radiotecnico, la sera io quando rientravo dal cantiere poi mi sedevo in laboratorio a fianco al radiotecnico sino alle 8 e l'accompagnavo a Usini, non io, l'autista della vita, e ci andavo anch'io tutte le sere a Usini, tutte le sere accompagnavamo questo radiotecnico, un certo signor Brusa, radiotecnico, e finché al ritorno mi ricordo con la 600 il principale, la prima 600, quella che apriva con il diffottile, aprivano l'avanti, anziché essere contro il vento, e al ritorno guidavo sempre io, guidavo, e non mi hanno mai fermato, dunque senza patente. Poi nel 66 mi sono preso la patente, questo è un paese che da allora ho avuto sempre la macchina mia personale, prima allora avevo la moto, prima della macchina ho avuto sempre la moto anche da ragazzo. E dunque per dirti no, a un certo momento questo mi ferma senza la patente, io convinto di averlo nella foderina dove tengo il libretto di circolazione, prendo il libretto, la patente non c'era, buco, faccio la promessa, non mi ricordavo dove l'avevo messa, eppure la patente deve essere a casa, era vera, era in tasca del giubbotto, me l'avevo dimenticato. Questa qua della patente io ce l'ho, non le racconto bugie perché ce l'ho e basta. Se mi vuole credere, ha detto no, lo dice, io potrei anche crederlo, però voglio sapere se effettivamente ce l'ha. Dove abita? Io abito in Puglia. E allora andiamo, dice, perché eravamo lì nei paraggi di Punti Senso, no, andiamo, dice, a casa e poi mi fa vedere la patente. Lei lo prende e me lo fa vedere. Se non me l'ha accompagnato sino a casa, me l'ha accompagnato. Ha detto, ci porti la patente, io lo aspetto qua, fuori, no? Fuori casa. E mi faccio vedere la patente. Io sono salito, ho preso la patente e ho fatto vedere. Va bene, là. Per questa volta perdonato. Se ricordi che la patente lo deve avere sempre in tasca, o perlomeno a seguito, quando guida. Mi ha detto, purtroppo è stata una dimenticanza, che cosa ci posso fare? Anch'io posso sbagliare, no? Sì, sì, ma non deve sbagliare in queste case qua. Capito lui? E voi dicevo, loro allora mi hanno detto che io stavo andando a 180, loro per potermi raggiungere hanno dovuto tirare a 190, ma che cosa era camionetta, forse era alta di cilindrata pure questa mano, loro la stavano seguendo da Sassari, hai capito, e non riuscivano a prenderla, hai capito, e loro hanno pensato, ha rallentato, ecco che l'abbiamo presa, hai capito Giulia? Lui mi ha preso a... Io più che altro ho visto visto la sirena perché non c'era nessuno dietro. La sirena è come tanti altri fermati e mi hanno bloccato. E non ero io, ho detto praticamente mi ha superato una macchina simile alla mia. Ha detto questa 180, questa non ci arriva a 180. E più le 4 dice che potrebbe anche arrivare. Ma cosa arriva? 180 arriva questa macchina. E poi si sono resi conto che non ero io, che hanno sbagliato macchina, e quello era Giacomo Torres. Ma è passato lì una cosa impressionante questa macchina, Giulio. Ma camminetti, e loro la stavano seguendo, hai capito? Ha visto il colore, la macchina, il tipo della macchina più o meno, la targa non sono riuscita a prenderla e pensava che fossi io, e non ero io, però cosa potevo fare? Ormai mi avevano fermato, non ero io. E subito nel domicilio di prende e dice, ma non sai che sei, dice, a 100 per riuscire a raggiungere, perché scappavo? Ma scappavo da chi, ho detto? Adesso mi ho visto io, perché scappavo a fare, sono 180, ho detto, ma cosa state dicendo? Ho detto che c'è, no, è 190, ma cosa stai dicendo 180 che non ho superato gli 80? Ma cosa stai dicendo? Ho detto che io sono partito da ottava, mi ragazzi, stavo facendo il corretto del letto, ho detto, sono andato lì a prendere dei tappi. No, c'è da no, non sono partito da Sassari, ho detto io, sono partito da lì, avete sbagliato, la macchina è passata a grande velocità adesso, però non si vede più neanche più, era già sparita, ti puoi immaginare, da quando mi ha superato dopo l'incrocio di Abba Corrente, e se la hai potuto andare a rivedere, non c'era più in circolazione quella macchina lì, giù, ti puoi immaginare. Sì, evidentemente era una macchina preparata, perché non riuscì a raggiungere la polizia, mica la macchina polizia camminami, non è uno scherzo. Eppure, evidentemente quella era una macchina preparata, allora camminava con le forze per quel motivo lì. E vabbè, ma grazie, ci sei ancora. Grazie, è andata a suonargli il campanellino. Positiva, però essendo intorto Giulio, che non c'avevo la cintura, non va più la patente, e stavo camminando 80 e ho confermato il stavo andando a 80, dico la verità, e lì era di 50, capito, era 50 lì. E che stava camminando lo stesso, ha superato lo stesso, pure se non era andato a 80, e allora questo cosa vuol dire? Quello si è salvato e volete castigare a me. Intanto mi hai fatto le cinture hanno lasciato prendere, c'erano punti da patente, e la patente di Badi, e punti da patente per le cinture, non mi hanno fatto le cinture, mi hanno fatto per la patente. E adesso ho dovuto andare a presentarla e pagare il verbale. Per forza, purtroppo è così. Purtroppo è così, hanno sempre ragione loro comunque. Sì, vabbè, avevano ragione perché se cambiavano 80 era lì, era 50 ancora. però ci potevano passare sopra, no? Evidentemente ci sono rimasti male, che non sono riusciti a raggiungere il pirata della strada, quello che stava volando, e allora ci hanno voluto prendere con te, proprio per rifarsi in qualche modo. E vabbè, là. Sono bravi, qualche volta già lasciano passare, magari ti avvisano, ti avvertono, questo sì, però ce ne sono che sono anche fettenti, è la verità, ce ne sono molto, ma che lui non per forza contravvenzionati, per forza, basta che loro ti hanno fermato, se con loro magari certi individui, certi poliziotti o certi carabinieri ti vogliono per forza contravvenzionare, questo sì, magari ce ne sono altri che magari effettivamente fai l'infrazione e invece ti lasciano andare lo stesso, ti avvisano, ti avvertono, ho capito, e invece lasciano andare tutto lì, e vabbè, le prendi io lui positivo, adesso se ne racconto non mi è successo da poco. Allora c'è il tratto che va da Basanta, la 131 quella che va da Basanta verso il ruolo di Nicola, che sono di questo Arimacinovia, quella poche parole, erano chiuso per perché stanno facendo dei lavori ed era chiuso per i mezzi pesanti, capito? E gli autocarri non potevano passare su quel tratto di strada lì. Cosa è successo? Che in poche parole il telegiornale, la Nuova Sardegna, aveva messo che tal giorno aprivano la corsia da Nuoro direzione a Basanta, in Lazza, quella zona di direzione Orizzano era aperta, all'incontrario no. Io il giorno stavo scaricando a Mamoiada e dovevo andare con la ruta Orizzano. E cosa ho fatto? Quindi sapevo queste cose, sento una nuvola, arrivo al figlio di ma come si gira per, ma come è andato dritto, e i cartelli che c'erano prima esposti erano coperti con questa busta di nylon, continuo a camminare, la busta nera c'era, sono andato, scoperto il cartello, il divieto non c'era più, basta farla per telegiornare, poi ho chiesto a Baracchino, mi ha detto no, dice vai tranquillo, dice accendere, no, ma andare, dice puoi andare. Va bene, continuo, arrivo, a un certo punto supero sedilo e arrivo al Bibio che dice Aido Maggiore, non so se ce l'hai presente, sempre visto questa 131, ma a pochi passi da Basanta. E cosa c'era? C'era il cartello che c'era una giornata di vento forte e il nylon era a pendoloni e l'ha scoperto. Seguimi bene, l'ha scoperto. Appena più avanti c'erano loro, 500-600 metri più avanti c'era la strada, la quale ferma, lo sa, dice che lì è di vento e lì non può traversare, questo no, gli architetti sono convinti, poi ha parlato del telegiornale, diceva lei non deve ascoltare quello che dice il telegiornale, no, io l'ascolto e siccome ho visto che i cartelli sono convinti, vuol dire se sono coperti che dice ma chi l'ha coperti? Ma non so chi l'ha coperti, mi ha parlato il telegiornale, io l'ho sentito al telegiornale, poi c'era nella Nuova Sardegna che riaprivano oggi, era riaprì che oggi era aperta, ho detto infatti sono chiusi, ma io lo so che c'era il divieto, perché lo so, però ho visto che sono coperti, venendo da loro sono coperti, vuol dire che si può passare. Niente da fare, ha detto che solamente scoperto questo l'inciubi, ha detto l'inciubi, quello di Aido Maggiore scoperto e dirige ad andare verso a destra, però c'è il pezzo del nylon che l'ha rotto il vento ed è pezzo lui, ma niente, ma lei è sicuro che inizia a telefonare, cioè, noi non abbiamo nessuna ordinanza, lì facciamo il verbale, no, se noi andiamo a controllare i cartelli, fanno il giro, dice, ci ha portato via il patente, il prezzo di cambio, tutto quanto, vabbè aspetto, andate, vedete, gli ho detto quello è scoperto, però c'è il nylon attaccato, fanno controllo, verificano, sì, quelli sono coperti, però attenzione, e facciamo il verbale lo stesso, perché mi fa il verbale? Cioè, perché quello di Aido Maggiore è quello che c'era un po' prima, che a 500 metri prima di dire tutto quanto, ha fatto tutti quanti i chilometri, là erano coperti, quello lì era scoperto, cioè, però una volta, anche se la scolgo il tempo, una volta che è scoperto, va rispettato, e gli faccio, voi state facendo una cosa che non è giusta. Se voi mi fate questo per fare, non è giusto, perché ne ha parlato il telegiornale, la Nuova Sardegna e della Nuova Sardegna. E di dire molle, cosa mi volevano fare questo per fare? Ma perché dovete fare questo per fare? Se io non sarei stato del posto, sbarcato stamattina da Olbia, avrei fatto quella strada, non conoscendo il coso, io cartelli non avrei visto, sarei passato. Quello è vero, perché il vento aveva tolto questa busta in quel cartello, l'ultimo cartello che c'era rimasto, mi volevano fare il verbale. Poi a un certo punto l'altro quello dice: tagli tutto, la prossima volta le rifaremo tutto, dice, tagli tutto, ci mandano via, cioè, la prossima volta le faremo. Ecco, non ho capito perché ha detto vi comportate in questo modo, se ne vada, la prossima volta rifacciamo tutto, vabbè. Se ne immaginate. Sì, perché non vogliono mai avere torto, capito? Perché secondo la loro mentalità, magari quando vedono che hanno torto, però non lo vogliono ammettere perché ci rimangono male, capito? Secondo loro sono loro i tutori dell'ordine e devono avere sempre ragione, anche quando hanno torto, non devono fare brutte figure. Siccome ce ne sono tanti incompetenti anche di questi agenti, ma tanti veramente, mi dicono, ma dai, ohia, non è possibile, capito? Un ragazzo un giorno eravamo al semaforo qui di Sant'Orso, no? E c'era questo ragazzo che stava camminando sul ciglio della strada, sulla destra, tranquilla, come il Pacifico. A un certo momento io ero dietro a questo ragazzo. Improvvisamente questo ragazzo ha visto la pattuglia della polizia, si vede, siccome era senza il casco, cosa ha fatto? Mi ha attraversato proprio davanti alla macchina, ma d'improvviso, in una maniera, non so nemmeno io come ho fatto a non prenderlo, e per girare a Sant'Orso direttamente, in modo che non passasse davanti alla polizia. Io lì, così, diciamo, in maniera molto, ma molto normale, ho fatto pi, gli ho fatto a questo ragazzo, non ho voluto per dire, butto l'efficiente, la destra così mi attraversi, perché io stavo per sorpassarlo, stavo questo ragazzo, no? Mi attraversa così, con il rischio di farsi investire, perché potevo anche investirlo, no? Beh, c'era la polizia a 50 metri, 100 metri davanti e mi ha fermato. Lei dice, stava sorpassando questa ragazza, e beh, se lo stavo sorpassando, che vuol dire? Era nella mia corsia, sì, era nella mia corsia, poi lo passare. Interessante che io non ho trovato la linea del confine. Quando io sono nella mia corsia, all'interno della mia corsia, posso sempre sorpassare. Piuttosto, è quel ragazzo che mi ha suonato appositamente, perché quel ragazzo, improvvisamente, la ciglia della strada, come stava camminando, vi ha visto, ed era senza il casco, improvvisamente, mi ha attraversato la strada, mi si è messo davanti per girare via Sant'Orsola, perché si è spaventato, perché ha visto voi. Non sai questo cretino che voleva farmi la contravvenzione, perché secondo lui io stavo sorpassando, ma se anche se stavo sorpassando, qual è l'infrazione, scusi? Perché se sono io nella mia corsia e io sorpasso all'interno della mia corsia, tranquillamente posso sorpassare, non esiste nessuna legge stradale che vieta il sorpasso. No, secondo lui io stavo sorpassando e mi volevo fare la contravvenzione. Ma tu vedi che la contravvenzione dovrebbe fare quel ragazzo, perché vi ha visto improvvisamente senza casco, e allora per non fermarlo voi ha attraversato lì, ha girato così, perché se ne è accorto all'ultimo momento, capito lui? E sono così, non vogliono mai avere torto, non vogliono fare mai brutte figure questa gente, capito? E allora ti dico una cosa, Giulio, adesso ti dico una cosa, questa lo sto percendo, no? Se tu fai, se passi una moto, sei in 131, vai la 131, e tu vuoi sorpassare una moto e la sorpassi nella stessa corsia di marcia, che sei in contravvenzione. Lo devi sorpassare nella corsia di sorpasso. Ricorda, sia una bicicletta, sia una moto, devi essere in corsia di sorpasso. E ti dico una cosa, perché è successo questa cosa qui a Ponte Secco, è successo con mio figlio che l'hanno investito in moto, l'hanno buttato giù, questo l'ha sorpassato nella stessa corsia, hai capito? Nella stessa corsia e in poche parole questo tipo qua che si è messo due avvocati, gli hanno ritirato anche la patente, perché lui non poteva superare la moto nella stessa corsia, doveva andare in corsia di sorpasso. Hai capito? Doveva andare in corsia di sorpasso, invece l'ha fatto nella stessa corsia e l'ha buttato giù a terra, hai capito? E l'ha pagato, ha pagato i danni della moto di mio figlio e dell'altro che era giunto insieme con mio figlio, e più a lui gli hanno ritirato la patente. Vabbè, quello perché ha avuto un incidente che l'ha fatto cadere il motociclista, ma se tu il motociclista non lo tocchi, puoi sorpassare. E io, tanto è vero, una volta avevo chiesto, anche siccome io ho un amico che lavora ancora adesso, sempre fa scuola guida, addirittura di teoria, batteria insegna alla scuola guida, in due scuole guida a addirittura. E gli hanno detto così, no, quello lì sta sbagliando molto, perché se uno lo tocchi, lui se ne lo butti dalla moto. A parte il fatto che io non l'avevo sorpassato intanto, no, perché, ripeto, lui aveva attraversato improvvisamente davanti, ma ho rischiato addirittura di investirlo, perché lui ha attraversato imprudentemente, capito? La destra, così, tutta la moto è passata a sinistra, proprio per girare Sant'Orso. E poi dice, se tu non l'hai toccato, lo puoi sorpassare, chi l'ha detto? Non c'è mica la distanza che uno deve tenere o da un sorpasso, la distanza deve essere quella di sicurezza e basta. Pensate, invece c'era una moto che stavo camminando sul ciglio della strada, c'era abbastanza di spazio, perché se tu ti accavalli le ruote di sinistra, te le accavalli sulla linea tratteggiata, dove c'è appunto il limite della strada, tranquillamente puoi sorpassare. E chi l'ha detto che non puoi sorpassare? Questo è quello che mi aveva detto a me l'istruttore della scuola guida, proprio perché gli avevo detto, te mangi un poliziotto così e così, e mi ha detto, ha fatto la multa, no, non me l'ha fatta la multa, ha detto che ha capito che aveva fatto l'orto, ha detto. No, no, questa è la legge, la legge che lo dice, quando non la mando, è successo a mio figlio questa cosa. Successo a mio figlio che questo ti ha messo due avvocati dicendo ma la moto ha sbandato, no, la moto, c'erano testimoni, lui l'ha preso, non era in corsia di sorpasso, l'ha sorpassato nella stessa corsia, capito? E per questa infrazione gli ha fatto danno, l'ha buttato giù e ho ritirato pure la patente, perché anche una bicicletta, quello che sia, deve andare in corsia di sorpasso, non lo puoi fare nella stessa cosa, capito? Beh, quello della patente gliel'ho ritirata perché ha buttato giù un motociclista, quella scelta, quello è un altro discorso, perché se non l'avesse toccato non sarebbe successo niente, sarebbe andato e basta. Comunque, io so che è così, io sto parlando di tantissimi anni fa, adesso non so se le leggi sono cambiate o come sono, ma io so benissimo che prima si poteva sorpassare, interessante, e uno non gli raschiava il gomito al motociclista, è quello il problema. Quando tu lo sorpassi, lo sorpassi in maniera lasciando spazio abbondante, dunque secondo me andava bene, e va bene. Adesso se le leggi sono cambiate non so cosa dirti. No, io penso che siano state sempre così, adesso non esisto, però è così. Il fatto del sorpasso, la legge, tu anche un ciclista, ma lo so io delle ultime partite che ho preso, anche un ciclista, quello che sia, non lo devi come cosa, tu lo devi superare, devi andare in corsia di sorpasso, non nella stessa corsia, mai sorpassare perché se c'è una pattuglia, te lo fai verbale, lo faranno anche loro questa cosa qua. Anche se è una bicicletta, una cosa deve andare in corsia, deve essere in corsia di sorpasso, nell'altra seconda corsia, non nella stessa corsia, capito? E poi ti racconto una cosa, non so se tu sentito mai a Calvino, che non si chiamava il Corrotone, quel che torna a di Santa, Calvino, ha nominato il baracchino era Puglia, non so se l'hai mai sentito nominare questo Calvino qua. Io l'ho sentito, sì, ma non ci ho parlato mai con quello. Ecco questo in zona di Orizzano lì a Fiumo, qua c'è la pattuglia della polizia, da lì a mettersi sulla 131. Cosa ha fatto lui? Come ha visto che loro stavano uscendo, non sapeva mai che non c'era nessuno, piglia e si mette, vai così al sorpasso. Vai così al sorpasso per dargli spazio a loro. Hai capito? Cosa fanno? Lo seguono, tra l'altro mettono una faretta e lo ferma. Dice perché dice è andato in corsia di sorpasso? Se non c'aveva nessuno a commessa per camminare al centro carretta nella corsia di sorpasso quando non c'aveva nessuno a sorpasso. No, dice beh, ho visto che stavate uscendo voi, vi ho lasciato il passaggio libero per andare e sono andato in corsia di sorpasso, non c'avevo nessuno, sono andato in corsia di sorpasso. E il tuo rosella ne è fatto per fare. Dice ma io vestivo a voi, lei doveva vestire a voi, però doveva andare così al sorpasso, non è fatto un verbale tu a Rosario. A me mi sembra strano, perché una cosa così no, secondo me non si può fare. Tu mi dai, ma così al sorpasso uno non può camminare. Ma se la strada è accesso unico, perché in effetti è accesso unico, oggi ci sono le barriere, ci sono anche in mezzo alla strada, sicché in pratica la strada che tu transiti è accesso unico, sicché anche sulla corsia di sorpasso puoi camminare, che vuol dire? Non riesco a capire per quale motivo, non è che uno sorpassa e deve rientrare per forza subito, e se davanti c'è una fila di macchine, io sto sorpassando per dire una fila fila lunghissima di macchine, per quale motivo devo rientrare? Non devo rientrare, perché sono sempre in corsia di sorpasso, magari sto sorpassando per chilometri, non riesco a capire per quale motivo devo fare la correlazione. Eppure così l'hanno fatta, e a me è precapitato, a me un giorno me ne hanno fatto una a zona di San Teodoro o di Cudone lì. Addirittura c'è con questo trattore di quelli piccoli snodati, quello corrono un rottofatto dietro attaccato. Sono strade strette quelle. Sono qua perché la strada era. Non c'era qualche cosa. A un certo punto c'era un pezzo di rettilineo che faceva come un dosso, però essendo in camion, io questo dosso ero più alto e lo vedevo sino tutto a libera la strada. Come ho visto che era tutto libero, metto la freccia e lo sorpasso. Ecco, questa macchina che avevo dietro appresso, era una macchina cimetta, quello che si chiama della polizia, impiegato mi mette appresso e mi blocca, mi ferma, dice lì ha fatto un sorpasso, lo doveva fare, ho visto tutto libero, la striscia continua, per loro è come che io avevo saltato un muro, dice lì, saltando, oltrepassando quella striscia continua, lì come che abbia saltato un muro, beh, ma viene fatto 50 metri. E quello sì, quando c'è una striscia continua non puoi sorpassare, deve essere tratteggiata la striscia, se no è chiaro che stai commettendo un'infrazione, se c'è la linea continua no, non puoi sorpassare, ma la linea continua dove la trovi? La trovi in prossimità magari di un incrocio o imminente o di qualche altra situazione di pericolo, e allora c'è la striscia continua, è giusto che non si sorpassi, ma se la linea è tratteggiata uno sorpassa tranquillamente, sulla linea continua lo sappiamo benissimo, non puoi sorpassare. Anzi non ci puoi mettere nemmeno le ruote sopra, se per quello, perché stai camminando sopra il muro, è vero, quello è vero, ma è così, questo lo sappiamo, comunque sai cosa dico, loro hanno sempre ragione, è la metà di quelle persone non ne capiscono niente, ci quasi la stradale, guarda, li mettono a fare il servizio ma sono incompetenti, questo è da tenere in considerazione, lo sappiamo benissimo. Positiva, no, siccome c'avevo questa cosa che non andava niente, a 10 allora, che me ne va piano, è vero, da un baby, andate piano piano a pensare, ma c'è stato il nostro lì era ancora, no, dove c'erano le curve, le cose non mi sono fidato, perché non vedevo, ma lì c'era il dosso, capito, e per il dosso, con la vettura essendo in basso, tu non vedevi, invece vedevo tutto campo libero, hai capito, dall'alto, capito, detto, sono libero, ho superato, è andato a 10 allora, neanche a 10 allora è stato camminando con il trattore, capito. E poi ne ho preso un giorno bevendo nella fontana, mi fermo alla città di Bonorca, da dentro il paese uscendo dalla Bonorca, c'era una fontana, c'è tuttora, poi curva lì, insomma appena parcheggiato il carro, di ricchio, di tutta oggi, ho gato un azzetti, gato un caldo, una azzetti, mi fermo alla fontanella, e c'è la fontana fresca, mi sciacquo, stavo bevendo, e arrivano i carabinieri, sono giù, 50 media branchi e annotazione da parte, perché ero fermo in curva. Quelle sono tutte infrazioni giuste o lui, ma è chiaro, tu ti metti in curva e ti fermi lì, nemmeno la bicicletta si può mettere in curva, lo so, è chiaro, se poi c'era un dosso ed è giusto che ci sia la linea continua e dunque non posso passare, tutte queste cose sono tutte regole della circolazione stradale, ma questo è normalissimo, ma se sei tu in rettilineo, anche se tu sei in alto, seduto e c'è la linea continua, non puoi sorpassare, perché? Perché evidentemente tu lo vedi, magari ti puoi aggiungere un'altra macchina nell'altro senso e non ti, a te non ti vede, allora il discorso diventa pericoloso, no? E non è normale, tu hai fatto delle frazioni e allora giustamente ti hanno penalizzato per quello, ma se c'è la linea tratteggiata, tu sorpassi tanto di bene di piazzi, anche per chilometri, perché tu davanti puoi avere una fila di chilometri di macchine e tu ti fai tutta la strada sempre sorpassando e non ti possono dire niente, nella maniera più assoluta, figurati. Sì, ma lì non c'era traffico, non anni che parlano di era deserto, se ne fa una sente, si fa una sente. E mi sono poi appoggiato e siamo se vede la strada bene. E c'era appena le spalle del ruote, le volevano un po' fuori nell'asfalto, mi sono appoggiato e sono andato a voleva portare arrivano loro, sono la faccia delle carabinieri. E mi fate 50 mila franchi, me ne hanno stati una patente, ma è fatto anche il padre. 50 proprio, allora, carabinieri erano terribili all'epoca, adesso no, ma prima sì. Sì, ma certo, e se per quello non so se sia vero, ma io ne ho sentito addirittura gente che aveva un supercarico che non poteva avere, e allora quando gli bastava regalargli qualcosina, quando avevano roba da mangiare, eccetera, no? E ti lasciavano passare, adesso non so se questa è la verità o meno, ma a me me l'avevano raccontato, il camionista, dice, ma prima della polizia, dici, della frutta eccetera, la giovane doveva lasciare il frutto ma ne aveva passato, ma io avevo parecchie quintali, dice, e in più di quello che potevo portare, ma ne aveva passato. Fatto, che assistiva, lo sai che hai fatto con me sul reato lo stesso, glielo sai, sì, perché quella lì è corruzione mia, lo sai, e glielo so, sì, però non me l'hanno fatto le contravenzioni, e ero vivo, la prossima volta se non voluto andare a fare la contravenzione, l'hai compreso, ammesso che sia vero quello che ha detto, poi non lo so, se si lasciano comprare anche in questa maniera questa gente, non lo so, la verità, io volevo che ti dica, boh. Sì, ma ha sentito anche di quello, e già lo so, sì. Boh, credo che ti dica. Io dico solamente una cosa, che secondo me a uno non gli deve dare niente, perché tanto lo stai corrompendo, e dunque se stai corrompendo, se corrompi una persona c'è anche un corruttore, se che sei in due che state facendo un'infrazione, l'autista è il poliziotto che accetta la ricompensa per evitare la contravenzione, no, va bene, uno è nel regola, se proprio uno ritiene di avere torto, cioè di avere ragione, perché gli hanno fatto una contravenzione a torto, lo porti davanti al giudice di pace e poi si vedrà. Intanto in un frattempo tu la contravenzione potresti, tu mi avrai di matematica anni, e poi se che ci passano anche anni, però se tu ritieni che la contravenzione te l'hanno fatta ingiustamente, lo denunci, lo fai, lo porti in libera, ma con te se la contravenzione lo porti davanti al giudice di pace. Dunque, quando uno è in regola non ha mai niente da temere. Il fatto è che tante volte o più delle volte le persone non sono mai in regola, o per un sovraccarico, o perché magari hai fatto il sorpasso e non hai davanti una freccia, o perché hai superato un limite di velocità, insomma c'è sempre un motivo dove loro si possono attaccare, capito? Mentre invece in questa maniera, se tu sei tranquillo, no, faccia il tuo dovere, non si preoccupa che io lo contesto la contravenzione. E ci sono quelli che magari quando sentono così ti lasciano andare, vada per questa volta, vada via, le prossime dice stia attento. Ma ci sono quelli che magari sono un pochino più puntigliosi e allora fanno del male. E allora do un disogaso, c'è proprio, perché questo è successo una volta un avvocato, dato lì faccia tutte le contravenzioni che vuole, fatte se vuole l'aiuto anche a scrivere, ha detto, perché la penna a me non me la prende nessuno ma da mano. Fatto, guardi, io sono un avvocato, non si preoccupa, gli scrive e faccia quello che vuole. L'ha fatto la contravenzione, e beh, alla fine l'ha fatto lui stesso, e quel poliziotto l'hanno anche condannato, pensa un po'. E qualcuno vi ha messo qualche interferenza. E lo so, a volte capita, no, io a me mi sono capitato le belle, a volte me ne hanno perdonato, dico la verità, essendo in torto, in coso, me ne hanno perdonato parecchie, comportandomi bene, dando giustamente la ragione, avevano ragione, l'ho ammesso e mi ha detto tenga tutto, dice, però dovrebbe fermarlo qua, lì a noi non ci ha visto, se no noi facciamo quello che dobbiamo fare. Sono state tranquilli se mi fermano di colite, capito? Ma mandato via dicendo se ferma qua che dovrebbero fermarlo, noi lì non ci ha visto. È capitato tante volte, è capitato una cosa, perché se no no, mi ha fermato la pattuglia di numero di cosa, vuoi dire, non me la, no, lo fermano, dice non ho visto tutto, però in casa lì deve dire che a noi non l'abbiamo fermato e non ci ha visto. Sì, infatti è così. Certo, perché se no magari con la pattuglia successiva è capace di denunciare la pattuglia precedente che non ha fatto il suo dovere. Già lo so, perché anche fra di loro poi si è capace che si fanno la spia, capito? E già lo sappiamo queste cose. Comunque è sempre, siccome anche loro sono uomini, no? Allora c'è quello buono che sopporta, lascia andare, lascia passare, capisce magari che questo è un lavoratore, sta lavorando, lasciamolo andare, vabbè, pazienza, intanto adesso ce ne prendo 50 euro o 100 euro, quindi gliel'ho preso la giornata, gliel'ho preso, e ci sono quelli invece che sono pettenti, di due sbagliati, non che paghi, capito, anche per farsi vedere chissà che cosa, che bravo, magari agli occhi di un comandante, di chissà, di un superiore, insomma, sono così anche, capito, e vabbè, comunque. È interessante stare sempre molto attenti per cercare di non sbagliare, così loro si possono sbattere anche a testa al muro, perché quando uno è in regola e basta. Tutto lì. Positivo, no, quelli dell'altro giorno mi sono incalcolato, ho detto no, e io quando il coso ho detto sono il primo che lo ammetto, ma voi state sbagliando, se voi vi fate questo per fare lo state facendo, perché non è giusto, vi state facendo una cosa che non è giusta, e vero sia che no, da qui all'ultimo ha dato tutto, e ci si è avvicinato l'altro, ti ricordi bene cosa ha detto il collega, alla prossima noi gli facciamo tutto, alla prossima volta, li controlliamo, gli faremo tutto. Questa è una minaccia, mica che mi hai avuto a fare un momento, ed è come una minaccia che mi ha fatto, così. Sì, ma è così, lo sai così, ripeto, perché non vogliono essere loro, capito, quindi dice io sono l'autorità e sono io che ho ragione, anche se ho sbagliato, ho sempre ragione, ecco come la pensano, sono dei credenti, per carità. Invece un giorno c'era un carabiniere che abitava accanto a me, non quando abitavo in questa casa, nell'altra casa, no? Questo carabiniere era giù col bambino che stava giocando con il figlio, stava facendo giocare per strada, no? La gente che passava se lo guardava, questo tipo qua, se lo guardava e rideva. A un certo momento, tac, arriva la moglie, e fa la moglie, dice va, qui ci passa la gente, lo guarda in faccia, si mette a ridere, e non capisco perché. Per forza si mette a ridere, non te ne accorgi che sei con gli occhiali al sole e ci manca un vetro. Ti puoi immaginare che c'era un carabiniere, non si era accorto che gli mancava un vetro dagli occhiali, la gente quando lo vedeva con gli occhiali, con un solo vetro è chiaro che ti vedeva e si metteva a ridere, no? Era normale, no? E lui non capiva per quale motivo stava ridendo la gente. Sì, ma sì, che barzelletta, sarà che barzelletta che sta giù. No, non è barzelletta, no, questa in realtà è uno che abitava lì a fianco a me, a fianco a casa, dove abitavo io, in un'altra scala, perché dove abitavo io era una palazzina con doppia scala, no? E lui abitava, io abitavo a via Ciriaco, lui abitava a via De Falcos, abitava. È così, altro che se avessero giocato non si era accorto che ci mancava la lente, gli era rimasta in tasca, gli era rimasta gli occhiali, se lui forse si è piegato, che ne so, in qualche maniera si è attaccato, lui senza guardare, ha preso, ha messo gli occhiali, si è messo il caricatore, va via, e gli mancava la lente, gli frega, non è barzelletta, non è vero, è questa è realtà, lui. E lo distinto è immediato, senza carabinieri, aveva messo all'epoca, sono più studiati, dopo ci sono già studio, non c'entra i carabinieri, avere una laurea, una cosa, se no è difficile entrarci, così è polizia e ogni cosa, qui me ne più cosa, sono più aggiornati, più intelligenti, più cosa rispetto agli altri anni, le leggi le conoscono di più e tutto quanto, invece prima erano infatti più era grosso, invece non erano che erano tanto così, erano i vici che erano una volta, erano più all'antica, compresi, invece questi che sono adesso sono più aggiornati, più cose, sono più, hanno fatto più studi e tutto quanto, prima no, è che c'erano tutti questi studi, no, dei carabinieri e dei poliziotti, capito? Le vecchie perché fanno anni indietro, adesso sono più lavorati, se non c'è una laurea, una cosa, non si prendono né in polizia né in finanza, deve avere un titolo di studio, se no non puoi entrare, non puoi puoi neanche fare conforto, come si dice, là. Sì, beh, certo, uno è giusto che sia un po' istruito anche, un titolo di studio lo deve avere per fare certo, soprattutto certi servizi, non è caspita, non pretendo anche per fare lo spazzino o per fare qualsiasi altro lavoro, addirittura anche come operaio, oggi tu vai in un'azienda, se sei giovane, sei un ragazzo, la prima cosa che ti chiedo, il diploma ce l'hai, se non c'è il diploma ti dico no, non ci interessa perché ci interessa una persona meno diplomata, capito? Anche a livello di operaio, questo lo sappiamo, è successo già diverse volte, o per la scusa per mandarti via un ottimo giubilà, oppure perché magari effettivamente pretendono delle persone che hanno un certo titolo di studio, o almeno è giusto che sia anche così, l'istruzione ci vuole nella vita, se no addio, sono finiti i tempi di essere analfabeti, non è il caso, come prima c'era gente che non sapeva fare nemmeno la sua firma, c'è ancora tanta gente che non sa scrivere, tantissima, anzi, persone attualmente di una certa età, oggi invece c'è la scuola del pubblico e tu sino a quegli anni devi per forza andare a scuola, se no denunciano i genitori, è giusto che sia anche così, capito? Solo che se arrivo a 18 anni, la scuola del pubblico mi sembra che sia 18 anni, oggi come oggi, e deve pensare che questo, che se uno lo obbliga ad andare a scuola sino all'età di 18 anni, poi deve considerare che deve, secondo non ha più voglia di studiare, lascia lo studio e deve lavorare, no? Però il lavoro poi è difficile trovarlo. E così, dato che c'è gente che a 18 anni si sposa, dato per dire, no? Dimmi tu come può fare andare avanti. Invece prima io avrei obbligato ad andare a scuola, allo stesso tempo se vuoi lavorare devi anche lavorare, perché? Perché secondo me nella scuola c'è una cosa molto ma molto importante che manca, e cioè la scuola di orientamento professionale, così se uno non ha voglia di studiare, è arrivato a una certa età, non è rana, e allora nel frattempo ti sei scelto un mestiere da fare, e invece no, lo obbligano sia a 18 anni, la buona vinda, dice in Chivi, trova una ragazza, la mette incinta, si sposa per forza e poi è costretta a rimanere a carico dei genitori o dei suoi, eccetera, eccetera, capito lui? È tutto diverso. Allora noi c'era proibito non solo di studiare, ma anche una piccola calcolatrice. Era proibita a noi, era proibitissima. Adesso cosa fanno a scuola? C'hanno il computer, i bambini. A scuola sono elementari. C'hanno il computer, quindi fanno fare tutti quei computer, e fare le cose. A noi queste cose non lo permettevano a scuola, ma fai di far scontro una calcolatrice, ma stai scherzando, ma manco parlarne, la cosa doveva farla tutta a mente, portavano i guriditi, quelle cose, ma mai calcolatrice, cose del genere, mai assolutamente, ma stai scherzando. Invece adesso oggi c'hanno telefonini a scuola, con telefonini fateli risolvere i problemi, li conti, li copi. Ma stai scherzando, prima se avevo una calcolatrice, una cosa del genere, erano dolori, ma stai scherzando, non te lo permettevano assolutamente, invece oggi permettono tutto questo, ti portassi anche una piccola calcolatrice a scuola, capito? Per il postino ce l'ha, ed è normale, e allora uno cosa impara? A me non riesci mai a farlo, se tu prendi uno studiato, a volte Giulio, tu guarda, se prendi questi studiati, li metti a dire le tabelline, non le sanno, perché le tabelline le fanno con la calcolatrice, hai capito? Lo risolvono con la calcolatrice, tu li metti a fare delle tabelline, questi che ci sono, a volte neanche i politici che si hanno messi li hanno fatto la vita, a volte le interviste le fanno a dire le tabelline, non sanno le tabelline, non sanno manco le tabelline. Sì, ma questo sì, indubbiamente, cioè in un certo senso la base dello studio manca, sì, si diplomano, si prendono anche la laurea, diventano quello che vuoi, ingegneri, dottori, avvocati, quello che vuoi, però magari non manca la base dello studio, è un po' come i mattieri, io mi ricordo quando io facevo per dire solo l'elettricista, tanto per fare un esempio, allora i collegamenti si facevano sempre tramite fili e basta, oggi si sa, anche un privato, salutano a caso in certi cantieri e fanno l'impianto anche i muratori. Perché? Perché esistono tutti gli utilizzatori necessari, per dire, se devo fare, per dire, un'invertita, e tu vai, ti compri l'invertitore, non fai altro che mettere pulsanti in parallelo uno dietro l'altro e vai avanti in questo modo, hai fatto l'invertita. Perché invece no, devi mettere i soliti quattro fili, invertitore e deviatore, dovevi saper collegare, anche se non collegavi giusto non funzionava mai, capito? Cioè, per questo l'invertita di solito si fa nelle scale, no? Si entra dal portone e si spegne per dire all'ultimo piano, tanto per essere chiari, oppure da qualsiasi altro piano, da ogni piano puoi spegnere e accendere. Oggi invece ci sono i relì, ci sono tutti questi utilizzatori, relì, commutatori, deviatori, tutto ciò che serve, e tu accendi e spegni da lì dei posti tranquillamente, senza bisogno, sempre con i soliti due fili e basta, lui. Ecco perché è diventato sempre, questo significa che hai perso la base del mestiere, e non solamente per l'elettricista, ma per un po' per tutto, per l'elettronica, per la falegnameria, per il fabbro, per tutto. Tu oggi vuoi fare un cancello, io sono, basta che state a saldare, ma voi compro una saldatrice e faccio un cancello, dico io, vabbè, lasciate a me che il concetto ce l'ho, perché diciamo che la falegnameria con le misure, con tutta la costruzione eccetera, si può anche adattare e avvicinare ad esempio a un fabbro per fare un cancello. Vado da Carbone, mi compro il pezzi, vado da Marcello, compro il pezzi, lui me li taglia, ascolta, poi vado da Carbone, mi compro tutte le tecniche che mi servono, i riccioli, tutte quelle cose messe armate eccetera, basta che io sappia saldare e li posso assemblare, ho fatto un cancello, capito come funziona oggi? Oggi la vita funziona così, però il fatto che io riesca a fare un cancello non significa che sono un fabbro, sono un mezzo fabbro, o meglio un quarto di fabbro, perché io questo lo voglio dire a tutti gli operai di oggi gli operai, sì, lavorano, fanno qualcosa, manca la base sempre del mestiere, ma di qualunque mestiere, non solamente di quelli che ci ho citato, capito? È positivo, no, anch'io, allora, non sono niente affatto, però mi aiuta abbastanza bene, perché anche giù da me sono stato tutto l'impianto, le tracce, tutto fatto, e l'ho fatto tutto io, l'impianto, cioè sono andato a casa questa foto, fatto io, ho messo, come dici tu, ho fatto, però non l'ho fatto senza la mia, accendo quando arrivo, posso accendere la luce, di fuori, la posso spegnere da dentro, la posso accendere da cosa, la luce dell'accendo da lì, la spento più avanti, la spento ancora più avanti, e così, capito? L'accendo la spengo in tre punti, la luce è automatica, voglio dire, man mano che cazzo lo posso accendere, spegnere, fare, capito? Perché lo faccio perché c'è un po' di passione, capito? L'ho fatto diciamolo, mi è sempre appassionato il fatto di essere cucina, capito? Anche a volte quando c'ho tempo in debutto ci sono dei buchi che con l'impianto funzionano, non so, io cucciati o cosa, non riesco.